Giro mezzo grammo in un joint. Tu poi fai quello che vuoi. Smetti di mandarmi cuori. Penso che dormirò fuori. Mi piace come ti muovi. Hai messo gli occhiali nuovi. Mi siamo quattro liquori. Chissà mai cosa ci trovi. Che siamo in ballo da un po'. No, non ci parlo da un po'. La bacerei ma non so. Mi piace lei ma non può. Abbiamo rifatto le otto. Che cosa abbiamo risolto? Che non sono il tuo ragazzo, però sto con te. Anche stasera usciamo ma non so perché. Ci prendiamo per mano nella bordere. Solo per poi guardarci risorgere, yeah, yeah, yeah. Tanto poi non fa niente. Se ci provo, lei non vuole. Oppure sì, chi lo sa. Un pensiero che non muore. C'ho mezzo mondo sotto alle scuole. Il cuore in gola in un ascensore. Lo so dentro sono complesso. Un po' staccato dal resto. Scusa, hai vietato l'accesso. Voglio trovare un pretesto. Tanto lo sai che ci penso. Tanto lo sai che ci penso. Tanto lo sai che ci penso. Mamma mia quanto sei bella. Dentro al delirio una perla. La ruota qua non si ferma. Scusa un periodo di merda. È un po' che sono in riserva. C'ho tutte le ruote a terra. Magari vieni te. No, non voglio andare al mare. Mentre ogni certezza scompare. Odio questa noia mortale. Sembra che stare bene non vale. Quindi viro, viro ancora un po'. Fino a quando il tuo nome non lo so. Tipo fino a quando non mi esplode il fegato. Chiama un taxi o credo che non me ne andrò. Mi odio un po' te lo confesso. Mi amo quel poco concesso. Scusa hai vietato l'accesso. Per scomparire voglio trovare un pretesto. Tanto lo sai che ci penso. Tanto lo sai che ci penso. Tanto lo sai che ci penso.